dicembre ritornai da me, mi concentrai, dovuto lavoro, e dietro porto via la scia della mania, di notti accese e male spese. A quel che fu di noi, che cosa fu, ho ancora ricordo, e guardo un album sporco di fotografie e trovo spente, sbiadite lente. Prendo fiato e ritrovo la mania di stare appeso, a viso teso. Per casa trovo un po' di tranquillità, le mani gialle, gli occhi stanchi.